te da soli. Cosa stai dicendo? Io sto già morendo solo ad ascoltarti. Soli, dimmi per chi piango e per che cosa prego. Io domani, se tu mi lasci sola, sola, per pietà, per carità, se c'è il silenzio nel tuo cuore, dorme l'amore, lascialo sognare un po', si sveglierà, lo so, ma io e te da soli, soli, non devi dirlo, ma stasera non direi di più quello che mi fa. Mi chiamo Celli Annunziata, nata a Papiano il 26 di marzo del 1923 e sono la nonna della persona che avete davanti in questo momento. Annunziata, come una sorella di mio babbo che la morì quando aveva ancora 18 anni, parina. Cioè, mi hanno sempre chiamato tutti Nunziatina, però io mi chiamo Annunziata, cioè se devo firmare, firmo Celli Annunziata, ecco. I miei nipoti da piccini mi chiamavano Nonna Tita, ora più bischeri mi chiamano Nezi. Sicché senti quanti nomi ho avuto io. In casa c'erano tre fratelli e la mamma ci morì che io avevo 4 anni quando mi morì la mamma, ma non si sa bene di cosa la morì, perché allora vecchi erano un po'... Sai, nonno Federico, Splendore lo chiamavano, era un po' severo, un po' egoista, non era mai contento. Sicché la mia mamma la doveva fare da uomo e da donna, capito? La doveva andare nei campi, a tagliare l'erba, la doveva andare a pulire i muli, ma l'andava a bordo anche la macchia, l'andava, sì, a fare le legne, a spostarle, sì. Sicché fino a che l'andò bene, però poi la s'ammalò. E mio nonno gli diceva, sì, è male, vai, lavora, insomma credeva che... E la mia mamma, sciagurata, proprio troppo sciagurata, via a fargli l'erba per muri, via a fargli le legne, via a fare il carbone, tanto che all'ultimo la cascò in terra. La cascò, gli venne la febbre ancora più alta, e questo primi di febbraio successe, il 14 febbraio la morì la mia mamma. Ma a me queste cose me le hanno dette e basta, me le hanno raccontate, perché io avevo 4 anni, che poi me ne ricordo proprio per nulla, c'ho solo qualche visione, qualche... Ecco, una cosa me la ricordo bene, che quando andò all'ospedale a trovarla, all'obitorio, via, a trovarla, c'era questo pacchetto di biscotti e gliene mangia tutti. Ecco, questo me lo ricordo proprio bene, è più una visione che un ricordo, vedo questo letto con sopra la mia mamma, poi vedo questo comodino con sopra questi biscotti e io glieli mangiai, e c'era un zocchi che disse ma non glieli mangiare, via, e un altro che disse no, via, lasciateli mangiare, e io li mangiai. Ecco, questo me lo ricordo proprio anch'io, ma il resto non capivo nulla, che poi a 4 anni, insomma, rimasi in casa con i vecchi. C'era la mia nonna, che si chiamava Maria, ma la chiamavano la Gaggia. E poi c'era il mio babbo in casa, c'era, e zio Gino. Zio Gino sempre stato severo, sempre, ma proprio non ci metteva in riga a me e ai miei fratelli, stava proprio paura di zio Gino. Invece il mio babbo era buono, sciagurato, parino, sempre stato tanto, tanto buono. Invece zio Gino quando arrivava proprio noi si stava proprio sull'attenti. Oddio, il mio fratello più piccino, il mio Adriano, aveva 11 mesi, sicché insomma tanto sull'attenti un poteva stare. Invece quello più grande, Angiolino, sì, perché lui aveva 6 anni, mi ricordo, infatti lo presero e lo misero subito in collegio. Anche con me ci provarono, anche con me ci provarono, che mi ricordo un giorno mi dissero ci hanno invitato le monache a mangiare, sa andare su. Andiamo, sai, per me non era mica questa cosa. Sì che si va su da queste monachine. Mi ricordo avevano fatto i sarcicci con l'uovo. Si era lì a mangiare questi sarcicci con l'uovo e cominciano a farmi, ma guarda come si sta bene da queste monachine. Ma guarda, si sta proprio bene, ma proprio bene. Ci portano anche un sacco di bambini, cioè qui si sta E io che ero ancora piccina, perché avevo 5 anni, era l'anno dopo della morte di mamma, ero piccina, ma avevo bello capito io che aria tirava, smisi di mangiare salcicci con l'uovo e gli dissi: cosa vorresti dire con questo? Di farmi restare qua su? E loro rimasero un attimo e dissero: no, ora rimani qua su, magari no. Oddio, se tu ci vuoi proprio stare, per noi va anche bene. Io mi ricordo, gli presi quel piatto con salcicci con l'uovo, gli buttai ogni cosa. Io non ci vengo in mezzo alle monache, gli dissi. Voi volete farmi stare in mezzo alle monache? Io voglio stare a casa mia. Voglio stare a casa mia io. E invece i miei fratelli stettero parecchio in collegio. Sì, sì. Angiolino ci stette diversi anni. Adriano lo mandarono da Frati, sai, a Certo Mondo, laggiù da Frati, vicino a Poppi. E lo mandarono laggiù, ma non ci forse sta, eh? Non ci forse sta, no, no. Scappò una sera scappò da sé, fece più di 10 km a piedi. E quando arrivò a casa a Parino, senti, aveva le mutande sopra calzoni, perché dal senso era mai vestito, era la prima volta. Ha fatto 10 km con le mutande sopra calzoni, povero bambino. E si pensa come stava da Frati. E insomma, io invece cominciai a andare a scuola, e perché a Papiano c'era l'elementare, erano anche vicine a casa nostra, tant'è vero, mi ricordo c'erano queste maestrine, a me volevano bene, perché io gli portavo il veggio, quel fuoco, io gli portavo proprio tutte le mattine, io gli portavo questa era una specie di un pentolone pieno di fuoco, via, e lo portavo e gli mantenevo il braciere acceso, e loro erano contente, insomma, mi volevano bene. E si andava a scuola con questo vestitino nero, bellino, era un bel vestitino, era come una divisa praticamente, era più proprio una divisa, ma insomma era bellina, devo dire. E ho fatto a Papiano io dalla prima alla quarta, si studiava, sì, e, oddio, ora sono più avanti, ora cominciano subito a leggere, a scrivere, invece noi in prima si faceva parecchi pali. Sì, i pali, o se no mi ricordo anche le righe, i punti, e queste cose qui, ma insomma io andavo bene, Ho fatto fino alla quarta, poi il mio babbo mi disse: oh via, allora ora ti va a Castia a fare la quinta. Gli dissi: ma io no, guarda, io preferisco andare in fabbrica, perché non ho proprio più voglia, anzi guarda, gli dissi: se voi mi fate continuare andare a scuola mi butto dal ponte, perché proprio non me la sentivo più, via, non me la sentivo, preferivo la fabbrica, e non mandava via. Che poi fra l'altro era, ora per carità, noi si stava anche bene in casa, non c'era nemmeno bisogno che io andessi proprio subito a lavorare, perché insomma noi di mestiere si spostava le legne, i tizi e i carboni, sicché insomma se era una famiglia abbastanza ricca si stava bene, la roba da mangiare non ci mancava mai, la mattina si mangiava il caffè e latte, si mangiava, se mio babbo doveva andare a lavorare gli facevano salcicci rifatti, allora io ecco la mattina a colazione mangiavo più volentieri un pezzo di pane con il sarciccio, che a me mi è sempre piaciuto, il maiale a me mi è sempre garbato tanto, e in casa quando si ammazzava il maiale stava questa pertica con questi sarcicci, io dicevo sempre che ne pigliavo mezzo, invece ne pigliavo uno e mezzo, capito? Così non se ne accorgevano, perché quell'altro e dicevano: madonna, ma come scemeno questi sarcicci, e io ne pigliavo sempre mezzo, guarda. Gli facevo vedere, c'era questo sarciccio a metà, capito? E ci credevano in qualche maniera. Questo fino a che ce n'era parecchi, dopo quando cominciavano a essere pochi, davvero smettevo e cominciava a pianne mezzo davvero. Ma insomma, si mangiava il che c'era i fagioli, o se no la minestra di verdura, la pasta asciutta, c'era anche allora la pasta asciutta, non è che sia storia recente la pasta asciutta. E insomma, si stava bene, io stavo con parecchio, sono stata con la mia Lucia, io con la mia zia. Perché poi la mia nonna è morta presto, la Gaggia Parina, e mi ricordo prima di morire gli diceva: oh Lucia, guardela te, quella bambina, guardela te, gli diceva in questa maniera, dopo l'è morta e l'ha smesso di dirgli in questa maniera. E insomma sono rimasta con zia Lucia, che mi voleva bene tanto, zia Lucia, però mi faceva cucire, perché lei faceva la sarta, a me cucire mi è garbato, allora magari sfaccendavo, facevo un po' queste altre cose, ma ci stava bene, sì, si era contenti, si era una famiglia unita, nonostante che la mia mamma fosse morta, il mio babbo non c'era mai, però in qualche maniera si era contenti. E poi allora io a 12 anni decisi finalmente di entrare in fabbrica e andai al lanificio a Stia. A Stia c'è questo bel lanificio, e io ero, se, se era, se era andò insieme io e la mia amica Delia, la moglie di Zanobi, sai? La Delia. Ma se era le più piccine di tutti, se era proprio piccine piccine, aveva 12 anni addirittura, sì, che figurati. E non ci mettevamo mai a tela, ci mettevano a fare le licciate, a fare i cosi, i tessuti cotelarini, insomma. E tela non ci mettevamo mai. Sicché io un po' stettico, dopo diedi da questo padrone dell'anificio, si chiamava Olimpio, lo chiamavano tutti Caronte. Lo chiamano Caronte, a questo omone, questo barbone, e gli dissi: senta, ma come mai a noi non ci mette mai a telaio? Perché io sono sempre stata un po' più ribelle. Dico: come mai non ci mette mai a telaio? Dice lui: Cristo della Madonna, mi ricordo con questo vocione, diceva sempre: Cristo della Madonna, Cristo della Madonna, o dove ti ammettere? Te lo vedi, c'ho una pedana più alta di telaio. E aveva ragione, in effetti si era davvero piccina piccina. Sicché si stette a telarini, e poi dopo via via si imparava intanto andare a telaio. E quando misero telai nuovi nella stanza dell'orologio, la stanza quella di sopra dove si stanno di solito, me ne diedero uno anche a me, io contenta, matta, mi pare vero. Sicché scendevo giù la mattina, presto si scendeva, perché da Papiano a Stia si doveva partire verso le 5 della mattina. Arrivavo alle 7, c'avevo il mio telaio, la mia cassetta con i tessuti e le spole e le trame, e facevo tutto, ho fatto tanti tessuti, io sono stata tante ore a telaio e non mi sono mai fatta male. Che dicano tutti che è facile farsi male al telaio. Ma io mi sono fatta nulla, guarda. No, una volta sì, invece, mi ci fa pensare, una volta sì, preciso quando si doveva andare in gita a Livorno, guarda. Si doveva andare in gita a Livorno con tutti in lanificio e io ero a pulire il telaio, si doveva levare il pelo, no, la sera, tante volte per far prima e si levava mentre che la macchina andava ancora. E guarda questo dito, guarda, vedi? Vedi come è storto? È perché me lo sguscio? Me lo sgusciò via praticamente, dovetti andare immediatamente al pronto soccorso, una passione, figurati. Io volevo andare in gita a Livorno, a me invece non potetti andare. Dovetti stare fasciata in casa tanti giorni, che il dito era in brutte condizioni, potevo anche perdere il dito. Ora, lei era un dito, io provavo a dire, lei è un dito, ma andatemici lo stesso in gita a Livorno, perché non è che mi sono. Ah, dice di no, non si poteva. Tanti anni. Ci sono stata nemmeno durante la guerra, si chiuse noi, guarda. No, anzi si lavorava di più perché si faceva il grigio verde per i soldati. Si lavorava per l'esercito, per il governo. Sicché, sì, non si è chiuso mai, guarda. E passava il tempo, intanto passava il tempo e io intanto avevo conosciuto anche Ali. I miei Ali. Il nonno della persona che avete davanti in questo momento. Ali aveva questo nome un po'. Ali, perché capisco, ma io penso sia perché i suoi genitori hanno letto Le mille e una notte, e capisco lo chiamano Ali, però andiamo all'anagrafe, insomma non sapevano bene come si scriveva, l'accento non ce lo misero mai, e insomma le è rimasto Ali di tutta la vita, come no. E lei era il mio vicino di casa praticamente, Ali, non è che fosse andato a cercarlo tanto lontano, stava davanti a me. Però io, sai, lo vedevo ogni tanto quando si andava a lavorare, lo incrociavo, lui andava su alla Calla a fare la strada della Calla, lo incrociavo, però non è che poi invece una sera si cominciò a parlare, dissi, bro, no. E si cominciò a vedersi, ci si vedeva parecchio la domenica a ballare, che a Papiano c'era questa bellissima sala da ballo, proprio, insomma, era proprio bella. E noi alle volte si ballava, e più delle volte, devo dire la verità, si leticava, perché leticare si è sempre leticato tanto, io e quell'uomo. Noi, guarda, ti dico, ci siamo innamorati così, a forza di leticare ci siamo innamorati. E mi ricordo parecchio in quel periodo si leticava perché io mi tingevo l'arma, senti un po', e lui non voleva, sicché mi ricordo per esempio un giorno avevo messo questo rossetto in tasca del cappotto, avevo appoggiato il cappotto, e dopo ballavo, mi impegnavo, insomma. E arrivò lui con questo rossetto in mano, così, guarda, mi fece, e lo buttò via. E non lo ricomprare, sai? Dico, toh, senti, vedi, no? E come mai? Ma come mai? A me non mi garbi il rossetto. Dico, toh, è un bel ragionamento, tu mi comandi te? E mi fece rabbia, mi impegnato tutti i giorni a ballare con altro. Capito? Perché non gliene davo soddisfazione, non mi garbava che modo di fare a me. Ci si vedeva, poi per carità di Dio ci si stava anche bene insieme, però ci si vedeva anche poco, perché hai visto, il giorno si andava a lavorare, magari la sera ecco ci si dava appuntamento dalla finestra, perché la finestra di camera di Miali e dava sulla finestra di gabinetto della Lucia. Sicché ci si dava l'appuntamento, io montavo un piede in questo gabinetto e guardavo di là e si parlava un po' così, via. Finché un giorno alla mamma di Ali, alla nonna Ricciola, gli venne male alle mani. Gli venne queste mani, non poteva metterle più né a mollo, né fare le faccende, non poteva fare più niente, perché appena le muoveva gli veniva l'eczema, tutta coperta, da qui in giù, tutta coperta d'eczema. Sicché andavo sempre io a fargli le faccende, quando una cosa, quando quell'altra. E il giorno gli disse, ascoltati, a me però una vita in questa maniera non mi garba, abbi pazienza, E vieni tutti i giorni, tutte le mattine, a farti le faccende, fa le faccende e poi torna a casa mia, a me abbi pazienza, Allora si decise di sposarsi. E infatti, e ci si sposò il 24 d'ottobre in 1946, appena finito la guerra, sai? E allora io presi tutte le mie cose, andavo a vivere di là, praticamente andavo a vivere nella casa di fronte, in una bella camera matrimoniale che ce la fece il falegname, era bravo quello. Renato ce la fece, sarebbe il marito Amelia, sarebbe il babbo di il nonno di Mirella, via. La moglie Giuseppe. E allora fa legname, era bravo davvero. Ci fece questa camera proprio bella e il giorno dopo si partì e si andò un viaggio di nozze. Senti, sto viaggio di nozze io me lo ricordo poco, ma mi interessava a me tanto, perché comunque noi ci si sposò di giovedì, c'era un altro di Stia che si sposava il giovedì e disse, bisogna che vado a pigliare dei parenti a Firenze. E si disse con Ali, ascolta, tu vuoi portare anche noi a Firenze? Almeno si approfitta, si fa i viaggi di nozze a Firenze. E sì, va bene. E si andò. Il giovedì sera e il sabato sera si ritornò qua con la Stasse. Che era la sita, via praticamente, allora si chiamava la Stasse. Anche la sera che tornò Ali alla Germania tornò con la Stasse. Me la ricordo, Ma insomma, e si dice che dai giovedì è sabato, ma io... Mi ricordo che era piovuto, mi ricordo che era freddo, ma a me mi importava di morto. Se arrivo a casa c'era un bel fuoco acceso, andare in canto di fuoco, bene, senti. Io stavo proprio bene a casa mia, sì. Sempre così l'estate, anche dopo, non è che dopo mi sia cambiata la prospettiva. A me bastava stare con Ali, per me si poteva andare anche nella luna, poi bastava ci fosse lui, io stavo bene, senti. Poi fra l'altro... Io prima di Ali, devo dire, ne avevo avute un altro e basta, un altro corteggiatore e basta, che venne da Arezzo, si stette parecchio tempo a chiacchierare, sì, ma mai praticati per nulla, mai nemmeno un bacino, mai nemmeno per sbaglio proprio, perché a me mi sembrava il caso. Infatti venne a cercarmi al cinematografo, venne e io guardai il film e vedo arrivare a questo, dico te. Dice, io ho bisogno di parlare con te. Dico, ma quando finisci il film? Ma non ci volevo parlare, infatti poi mi feci trovare all'uscita, perché a me non mi garbava quel modo di fare. E lui infatti poi dopo tornò a casa, mi scrisse una lettera, ma quella me la ricordo, era bella, c'era scritto, quando venni a Stia e ti chiesi di parlare, era per riallacciare quella catena che tu hai malmente infranto. Mai nemmeno un bacino, ma per dire, mai praticati per nulla. A me garbava per quello, senti. Mi garbava per come scrivere le lettere, più che altro, ma in modo di fare poi infatti poi mi ricordo con una mia amica che si cercava di rispondere per bene a queste lettere, ma non era facile, perché lui aveva fatto le scuole a Arezzo, sicché era un po' più avanti, era un po' più... Però insomma gli si scriveva. E dopo questo, senti, Aldo si chiamava. Aldo, sì. E dopo quest'Aldo non ce ne stati altri per me, sai? Solo Ali. Lui no. Lui è stato un po' più civettone, sai? Con quella storia anche di fai sordato. Sordato. Bel ragionamento, quando gli firmarono il treno a battifolle, c'è il treno fermo, tocco riaccompagna una a casa. Ah, senti che poi anche perché io un po' geloso all'ero, Non è che fossi proprio. Un po' geloso all'ero. Si leticava, sfasciava queste leticate, però poi alla fine magari a volte gli dicevo qualcosa e poi facevo, madonna, t'ho detto questa cosa e me l'ho scordata che con te non ci parlavo. Che figura di quanto si poteva stare in collera, un giorno al massimo. Perché poi lui, sa, quando si leticava, lui ne trovava subito un'altra, non è che stessi lì a guardare. Me lo veniva a dire, Poppa piano, hai visto? Mi girava la voce, non veniva a dire, dico, ma cosa mi importa gli ali? Dice, come tu ci fai l'amore? Io sì, ci facevo all'amore, l'è tanto smesso. Mica gliene davo soddisfazione a quell'imbecille, sai? Poi tornavo a casa, e che devo fare? Aspetto te? Però intanto era tornato. Era così bello. Ed è sempre stato bello quell'uomo. Da giovane e da vecchio, dritto come un fuso, bello, bello, bello, da morire. E poi era vero amore, infatti ci si sposò il 24 ottobre di 46. Appena finito la guerra. Perché Ali, ora sembra di dire così, ma Ali è stato tanto prigioniero dei tedeschi, eh? E non si sapeva nulla di nulla, eh? C'era aspettare e si sentiva dire c'è stato lo sbandamento, l'è tornato quello, l'è tornato quell'altro, e lui tornava. E lui tornava. Dopo ho saputo, ma dopo che l'era andato con gli americani. Capito? Dopo la prigionia l'avevano preso un americano a lavorare, con gli americani stava bene. Infatti mi diceva sempre, Dio buono, in due mesi da 38 kg che ero con i tedeschi, con gli americani sono passato a 72. Là stavo bene. Dico, capito? Non si sapeva. Perché buttavano questi bigliettini, capito? E basta, alle stazioni. Magari tu trovavi questo bigliettino in terra con scritto so prigioniero con i tedeschi. È un bel ragionamento, senza una firma, senza uno. Noi capito, si doveva immaginarsi le cose, no? L'era così, perché praticamente lui l'era a fare in militare a Parma. E però, poi dopo, loro cercavano di tornare a casa, però a Pavia sbandarono e praticamente li presero i tedeschi. Li presero i tedeschi, li portarono su e Ali lo portarono nei campi. Ma non nei campi. I campi proprio, campi di patate, via. No, campi quelli che si sente dire. No, lavorava nei campi proprio, faceva il contadino. Sicché male non ne stava. Nemmeno bene, però. Male non è stato. E non si sapeva nulla. Fino a che una sera, era alla predica, io sento arrivare la mia amica Olga Valini, sai? E io vedevo la sua guardata intorno, questa donna, io credevo la cercassi posto, figurati. Che, dico, Olga, vieni qui accanto a me, c'è posto. E questa Olga in mezzo di chiesa, stupida! Vieni via, è tornato Ali! Ma proprio così, in mezzo di chiesa, davanti a tutti, ma forte, me lo disse io, via. Oddio, sei pazzo. Via, presi giù a corsa, andava verso la piazza, perché lui era arrivato a Firenze con la stessa. Dopo era arrivato a piedi, poi dopo aveva preso la Stas e l'era venuto di qua, fino a Stia, capito? E l'era bello da morire con questo sacco di roba americana, con tutti questi vestiti americani che gli avevano lasciato gli americani. Infatti poi dopo a Papiano lo chiamavano l'americano, per l'appunto. E hanno seguitato tanto a chiamarlo l'americano. E allora ci abbracciò tanto, posando a casa, e lui cominciò a raccontare. Dopo, sa quanto l'ha durata a raccontare? Praticamente non ha smesso più per tutta la vita di raccontarmi come l'era andata, ma è carino, ha ragione. E però guarda, io ora non è per dire, però quel momento lì, quella sera, io non lo vorrei dire, ma secondo me è stato il momento più bello della mia vita. Ho tenuto, guarda, anche tutte le lettere che mi ha mandato quando era militare, tutte no, mezze le ho bruciate. Poi ho smesso, che mi pareva di farlo rimorire un'altra volta, però sai, me le sono portate dietro tutta la vita, e se ne trova qualcun altro poi sono morta, e mi dispiace. Si stette tutta la notte in allarme. Comunicazione di Parma, verificato per censura, approvato. Adunato il reparto nel cortile sotto il sole, ti bacio teneramente sulla bocca, gente allegra, il ciel aiuta. Prenditi ancora un bacio, amore mio, scusami il ritardo della risposta. Sono qui di piantone dal capitano, i miei amici sono tutti a mangiare, aspetto che qualcuno venga a darmi il cambio. Oggi sono stato un po' a zonzo per la città, mi ricordo di quella passeggiata, dove si fece quella piccola discussione, come dici tu, ma poi tutto è pace. Può succedere qualche temporale, no? Ma poi tutto si calma, perché c'è il nostro grande amore. Alla signora Nunziatina Celli, Papiano Casentino, firmato Goretti Ali, Scuola di Fanteria di Parma. Meno di 4 pagine non scriveva mai. Di che questo non è vero amore. E poi c'è anche qualche discorso in codice, sai, ogni tanto. perché il mio Adriano, il mio fratello piccino, quello è l'Adriano a casa con le mutande sopra calzone. Nel frattempo invece era diventata una staffetta partigiana. Sicché i tedeschi del sud della linea gotica l'avvertì lui, sai che arrivavano. E allora, e non si sapeva mai che fine aveva fatto questo Adriano. E allora vedi qui Ali scrive: dalla tua lettera sento che riguardo a, e ci mette questi puntini di sospensione, ancora niente. Ma vedrai che presto tutto riprenderà il suo corso regolare, perché sento che ci pensi molto. Io non me ne ricordo bene di preciso di cosa parla, però secondo me parla di Adriano. Ma insomma, chi se ne ricorda, senti. Sono quelle cose che a me non mi sono nemmeno garbate. Dice, le lettere vanno tenute. Ma per fai che? Sono ricordi. Ma ricordi? Ma ricordi di chi? Insomma, dopo sposati e rimasi incinta. L'anno dopo. Rimasi incinta, ma la prima bambina mi morì. Perché non era a tempo, parina. La feci di 6 mesi. Infatti l'ostetrica mi disse, guarda, se l'era di 7 mesi... Ancora, ma così non ti ci attaccare. Dico, è un bel discorso, non ci attaccare. Però di fatti aveva ragione, perché dall'11 che la feci a mezzogiorno l'era bella e morta, parina. Mandarono a chiamare che lavorava su alla calda, ancora lavorava su al passo, e nel tempo che lui arrivò giù, sta bambina, zia Fosca gli aveva fatto sto vestitino bellino, la pareva una bambolina. Infatti Ali arrivò, oh bellina, dico, Ali l'è bellina ma l'è morta. Dice, come l'è morta? Dico io, non era a tempo, abbi pazienza. E lui rimase male, capito? Dice, come? Dico, l'è bella è morta. E pari, non c'era nulla da fare. Eda si era chiamata. E Pilade, il falegname di Stia, gli fece questa... mi fece questa casserellina, un cosino di legno via con una crocellina sopra, la misero nei cosini dei bambini e via. E dopo pochi mesi che la era morta questa Eda, questa prima bambina, un po' l'era passato, ma insomma rimase incinta un'altra volta. E nacque Luciana, la zia della persona che avete davanti in questo momento. Allora Luciana, io per dire la verità, Luciana e la volevo chiamare Irza. Iniziali, guarda, ma in comune tu mi metti nome Irza? Sì, vovo, scese giù, arrivò in comune, gli dissero, come si mette il nome? E lui, madonna. Non me ne ricordo mio. Tornato fino a Pabiana a piedi, non era proprio il caso, il telefono non c'era. Mi dissero, via, è andata per Santa Lucia, mettigli il nome Lucia. Ma Lucia in casa la c'è di già, gli metterò Luciano. E gli mise il nome Luciana. E bella, poco prima io ho incontrato la amica Amelia, mi era nata questa bambina, io la metto il nome Luciana, gli dissi no, non gliene mette Luciana, l'è troppo sfruttato Luciana, ora si chiamano tutti Luciana, si chiamano. No. Dopo andare lì, dico Amelia, vieni qua, tu la sai l'ultima? Lo sapevi come gli ho messo nome alla bambina? Luciana! Si arrabbiò, disgraziata, dovevo dire per la tua, ma a me tu mi hai detto gli metti il nome Luciana, mi è toccato mettergli il nome Mirella, disgraziata, non ho fatto, è stato Ali che l'ha sbagliato, insomma non ci credete mica. E a Luciana senti, gli fece un maglioncino anche Teresa, che l'era la mia amica di cuore Teresa, però l'era anche malata di cuore, povera Teresa, e lei era morì presto davvero, era morita davvero giovane. La mi ha detto delle cose, dei segreti che io non li dico a nessuno, quelli li porto nella tomba con me. Perché praticamente con questo fatto che lei era malata di cuore, lei non poteva fare niente, no? Invece a ballare un giorno la incontro uno, dice lei era un ambuglio di sposato. No, via, me la sento, abbi pazienza, non... me le tengo per me, via. Sono cose che me l'ha detta a me e me le tengo per me. Insomma, quando nacque Luciana, Teresa era sempre viva, gli fece questo maglioncino perché dava le mani d'oro a Teresa. E basta. Lei 40, 48. Non nacque Luciana, nel 48. Si stava bene che c'era stato questo bell'evento, era nata Luciana. Però io, ecco, mi accorsi subito che questa gambina, questa bambina, l'aveva una gambina più fine. Praticamente, guarda, una cosa strana, praticamente questa bambina, dai ginocchino in giù, una gambina la ne affiniva. Capito? La vedevo la camminava con questi piedini in dentro, come se la facesse un po' fatica, capito? E questa gamba fine fine. Io gli dissi a Ali, dico: Ali, guarda, sta bambina ha la gamba più fine. E lui: sì, ma sta zitta, ti parla a te. E gli si misurò, avevo ragione io, ha la gamba più fine. Poi si portò dai dottori. Il dottore disse: no, ma è una sciocchezza, comunque fatela vedere dall'ortopedico, perché ha visto. E lui si è andato dall'ortopedico. L'ortopedico prese sta citta, la rizzò su così, metatarsi vari, un anno cessi e 2 anni le scarpe ortopediche. Non ti si rimase, dai nulla che ci pareva ci fosse. Un anno cessi e 2 anni le scarpe ortopediche. Ma c'era nulla da fare. Allora noi per essere sicuri si andò da Scaglietti, che l'era lo specialista, la Scaglietti. Ora però Scaglietti proprio gli ha 2000 lire. Ma insomma, si andò. Scaglietti via sta città, la tira su così e la scambia subito per un maschio. Ora, io capisco, Luciana era un po' cicciotta, in effetti, tutta pelata con questo ciuffino davanti, poi noi per l'appunto la sera anche vestita di celeste quel giorno, sì, che poi c'aveva delle belle coscione anche, Luciana. Però insomma un dottore, ora scambia una bambina per un maschio a quella maniera, noi si rimase un po', perché poi appunto per anche 2000 lire, che insomma, la rizzò su questa maniera, dopo insomma, alla fine capì che non era un maschio, dice, è una femmina, la guardò per bene e poi alla fine disse come quella. Metatarsi vari, un anno cessi, 2 anni e scarpe ortopediche. Noi si guardò qua, si disse: ma queste 2000 lire certo si potevano anche risparmiare. Ma insomma, alla fine tu commetti in gesti questa bambina, tu commetti in gesti un impazzimento. A 2 anni sta bambina dava sempre gessi, tutta la camminava tutta torta, le rampatire, guardarla, guarda, proprio si vedeva la sofferenza. E io pensavo: ma guardate che impazzimento, ma era meglio un altro figliolo che un impazzimento a questa maniera. E rimase incinta subito. E infatti poi nacque Angelo. Mi chiamo Angelo Goretti, sono nato a Papiano il 15 d'ottobre del 1951. E sono il babbo della persona che avete davanti in questo momento. Io dei miei anni di infanzia mi ricordo poco, perché poi ho visto allora, anzi non si andava nemmeno alle scuole materne, sicché ho visto erano quelle giornate tutte uguali, tutte fatte di giochi, di pallone, andai in fiume, sicché c'ho questo qualche lampo qua. Forse sa, deve essere quello. Il ricordo più vecchio che ho deve essere quando rischia di affogare dentro una vasca dove lavavano panni, perché giocavo con queste lance insieme a Moreno, che stava sotto a me, non Moreno, è il mio cugino. Si giocavano con queste lance, tre bastoni fatti a punta, normalissimi bastoni, e la mia lancia andò a finire dentro una di queste vasche. Io naturalmente mi sporsi per riprenderla, c'era il bordo scivoloso e casca dentro e naturalmente rischiava di affogare. E per fortuna poi Moreno andò dalla sua mamma e la stava facendo le pulizie, meno male il piano terra, loro abitavano sotto di noi, e questa donna, tant'è vero, nemmeno la fece giro, saltò dalla finestra direttamente, perché Moreno gli disse: mamma, c'è Angelo, l'è andato dentro la vasca dove lavano panni, tu mi dissi che lavoro, ora l'è lì, e va in su e in giù, va in su e in giù. Poi figlio di questa donna è preso un accidente, la passo là come furmi. Ed è se questi ricordo più vecchio che ho, ma davvero, La buffa forte, la prima cosa che mi ricordo è una sensazione della mano più che dell'occhio, capito? Una cosa viscida, scivolosa, e ce la faceva tornare su. Ma insomma, comunque sì, noi si stava bene su a Papiano, perché mio babbo e la mia mamma lavoravano entrambi, la mia nonna in pensione, sicché guarda, per me gli anni 50 sono stati proprio un bel periodo, tranquillo, sereno, poi dopo meno. Perché poi tocco fare la casa stia, no? Perché in quella di Papiano non ci si entrava più. C'erano queste camere che danno sulle scale esterne, il bagno era fuori, l'aveva ricavato il mio babbo da una vecchia legnaia, e a me andava anche bene in bagno fuori, però io dicevo: se bisogna andare in bagno lì, almeno non ci teniamo il cane dentro. Perché andai in bagno quel cane lì che ti guardava in questa maniera, capito? Io mica, magari se non era lì era un pochino più là, però insomma, voglio dire. Comunque, si fece sta casa stia nel 60, nel 64 si fece. E si venne giù così. Ma guarda, io a me mi dispiaceva, perché lasciare gli affetti anche di Papiano, un posto dove si era stati davvero bene, lasciare Moreno anche, che stava sotto a me, ma Marilena, Patrizia, Sergio, Enzo, Patrizio, i Caleri, Paolo, il Toppone, insomma, a me mi dispiaceva, guarda, venire via mi dispiaceva, però c'era un aspetto positivo, c'era che io facevo le medie, no? Le medie erano già stia, almeno ora ce l'avevo vicine, perché prima acqua, neve, vento, stasera c'era, io venivo a piedi a Papiano, capito? Almeno ora l'avevo lì queste medie. Il pulmino a tempo non se ne parla neanche, lo misi il comune, mise questo pulmino, sembrava una presa per il culo, un pulmino a 9 posti, che pazienza, solo Papiano dei ragazzi era una cinquantina, infatti sto pulmino andava a pigliare quelli che stavano più lontano ancora, quelli che stavano a Gaviserri, a Castagnoli, quindi per me la gente stava a 50 km dalle scuole e ci andava il pulmino a pigliare, però quello faceva rabbia, lei che poi dopo questo pulmino arrivava, te eri a casa, magari tu eri partita a piedi in quel momento, questo pulmino passava e basta, andava, capito? Non è che si fermasse a raccattarti, andava giù, ma insomma, io alle medie a scuola andavo benino, sì, poi sono sempre andato d'accordo con tutti, io sono sempre stata una persona un po'... Mi ricordo a tempi mi chiamavano Ali o Alino, insomma il mio soprannome era quello, Angelo non mi ha mai chiamato nessuno, no. Ali, tanto è vero, a me viene in mente questa cosa, tanto è vero, dopo a 16 anni comportò anche un problema questa cosa qui, perché una sera si andò al cinema a Soci, c'era io, il Pica, Moreno per l'appunto e Sergio, che era l'unico con la patente, capito? C'ha questo Volkswagen, insomma, si torna in su da Soci in questo Volkswagen, per la dritta dei guazzi ci passa avanti uno con 8,50, io lo conoscevo anche, tra l'altro, chiamava Parilla, era di Papiano anche lui, ci passa avanti, insomma, io non so se ci strinse, se non volendo, insomma, quest'altro partirono, ci ha stretto, delinquente, imbecille, via dietro a questa macchina, era luna di notte. Quest'uomo se ne accorse subito, no? Cominciò a pigliare tutte le stradine e noi dietro, quest'uomo passò dalla stazione di Prato Vecchio, noi dietro, su fino a Papiano, si arrivò lì, si parcheggia, il Pica scese e prese il click. Quest'uomo si chiuse dentro, cocosi, alle 2 di notte e mezza a Papiano, figurati, io dicevo, madonna, vedi, no? Ora qui ci arrestano, infatti ci denunciò il giorno dopo, anche perché e ci dicono beh tutti. Io di Papiano, il Pica di Papiano, Moreno di Papiano, non ho capito, c'erano praticamente tutti vicini di casa, ci denunciò. In realtà però denunciò solo il Pica, e qui è il punto, denunciò solo il Pica perché era andato al finestrino quel click. Sicché i carabinieri il giorno dopo andarono dai Pica, gli dissero, ma lei ieri sera l'era a correre dietro a Parilla con degli altri 3 imbecilli? E dice il Pica, sì, in effetti sì. E con chi l'era? Ero con Moreno, ero con Ali. Mi disse Ari, gli disse il nome di mio babbo, il mio imbecille. E i carabinieri andarono il giorno dopo, dai mio babbo. Lei domenica sera alle 2 le raccorre dietro a Parilla, il mio babbo. Io domenica alle 2 ero a letto e fu in manovale. Dopo, pur essendo carabinieri, dopo capirono, gli dissero, ovvia, magari perché c'ha un figliolo, dice sì, c'è un figliolo di 16 anni, Allora, capirono, insomma, il maresciallo ci fece una ramanzina. Finite le medie, dovevo scegliere cosa fare. Allora, in Casentino a quei tempi c'era questa grande moda dell'istituto tecnico. Dico anch'io, guarda, anch'io l'istituto tecnico. Sono andato all'istituto tecnico, ecco io lì, non ci ho mai capito nulla. Ma nulla, non ho mai capito come funzionava, non mi sono mai adattato a quei ritmi, a quell'ammasso di ore immenso, rientri pomeridiani... con queste materie che a me dire ostiche le dire poco. C'era, per fare un esempio, aggiustaggio. Aggiustaggio, a parte detto così, uno capisce, non sa lei aggiustaggio, ma praticamente ti insegnano a limare, già anacronistica come cosa, perché i torni e c'erano anche allora, ma insomma, mi dettero questo pezzo di ferro in questa maniera, dice lei lo deve mettere in piano, queste sono le misure, vai. Dico, ma io metto un piano in piano, come si fa? Lei lo deve mettere, deve limare, lo deve mettere in piano. Io boh, partivo con questo pezzo di ferro, cominciare a limare, avete sudato un pazzo, ma ci lavorare giorno e notte, davvero, a quei pezzi di ferro. E sembra facile, ma è difficile, perché se ti si sbassa un po' da una parte, lo devi riportare tutto un piano un'altra volta, capito? Sì, che lima sto pezzo di ferro, lima sto pezzo di ferro, in poche parole, da un pezzo di ferro sì, ci ho fatto un dadino in questa. Lima, glielo portai per la valutazione di sto dadino. Il professore non lo guardò nemmeno, guarda. L'ho preso in mano così, intanto mi guarda a me. 4. Dico io, madonna, dico, ma come mai? Ma in piano non è, le misure, è un sono, vedrai, quanto gli devo dare? Dico, ma io limare ho limato più di così, insomma, buono. Senza... Dopo ho capito come facevano quell'altri. Al piano di sopra c'era il professionale, l'istituto professionale. Tu andavi sopra quel pezzo di ferro. Tu mi dai il pezzo di ferro a uno, tu mi dai 200 lire dietro il pezzo di ferro. Tu mi dici, abbi pazienza, se mi vai e torni, io me lo metti in piano questo pezzo di ferro. Dopo, quando ti chiamavano per la valutazione, con questo pezzo di ferro, tu andavi lì, tu glielo davi, glielo mettevi nella cattedra, oh! Ecco il pezzo di ferro, vaffanculo del pezzo di ferro. Bellino, limato, un piano, aveva senso. L'era il bailamme quella scuola, l'era un caos incredibile. C'era una banda di gente, io mi ricordo quando entrai in prima, c'era 34 in classe, 35, gente di 19, 20 anni, ma gente enorme, con la barba, io mi ricordo, ma grossi proprio, con questo ragazzo di Prato Vecchio, con questo cartellone, veniva sempre... tutto, c'ha questa cartella, un giorno gli si ascolta, mi ha detto, mi fai vedere cosa tu c'hai con sti dentro, apre sta cartella, dentro c'ha la colazione e il pettino, presi il pettinino, si pettina un pochino, vai, rimise dentro ogni cosa, a posto, l'armadietto, sentici, dietro l'armadietto, a me, a mezzo, con gli altri quattro ragazzi, si mise il lucchetto per evitare che ci rubassero ogni cosa, perché tanto se avesse capito che era tirato, la mattina dopo, tutto rotto, tutto sparito, le tute dal lavoro non c'erano più, le lime tutte. Si disse, professore, come si fa? No, queste sono le tronchesi, la giuccia degli altri armadietti, mandate un fanulare. E funzionava così, in quella maniera, capito? Funzionava. Ma io poi, fra l'altro, con ragazzi mi trovo anche bene, perché sono sempre stato socievole, tranquillo, però erano proprio le materie, che a me non me ne fregava nulla di quella roba lì, capito? Infatti in prima bocciai, poi la seconda... Beh, mi feci la prima, la seconda comincia male, che comincia a fare un sacco di chiodi, non andavo mai a scuola praticamente. E infatti mi ricordo a colloqui, la mia mamma andò a parlare con la Tafi, con quella italiana, sai, la Tafi. E la Tafi mi fece, lei è la mamma di Angelo? Io Angelo tanto non rivedo, abbia pazienza, penso proprio che di Dio. Sì che smisi, no smisi davvero, avevo 9 insufficienze al primo trimestre, 7 in condotta e scarso a religione. Si chiede, sì, no, per il caso, quell'uomo di religione mi ci dette un tema da fare, me lo ricordo ancora. Abramo è il padre degli ebrei. Io ci scrissi. Possiamo considerare Abramo il padre degli ebrei? Poi un'altra cazzata che non mi ricordo, e poi proprio per questo possiamo considerare Abramo il padre di me, punto, Angelo Vecchi. Non più voglia, che non era più il caso, non era proprio il momento. Ma insomma, finito l'itis, pagina oscura, andai a lavorare, andai a fare il manovale con il mio babbo a Serelli. Si partiva la mattina alle 6, senti, con la ciotolina, con il pranzo, ogni cosa, è stata su tutto il giorno, ci feci... quanti mesi? Tre, insomma, poi dopo gli dissi, vai, io quasi tornerò a scuola, guarda. E il babbo mi disse sì, eh. Beh, un bel discorso questo. E dove tu andresti? Ma dico io, senti, io ho visto che ho bello pezzo tanti anni, quasi fare le magistrali. Almeno sono un anno o meno, sono più corte, si recupera. Dice, va bene. Andai. E andò bene. Sempre promosso. Sempre, ma proprio bene andavo, arrivavo all'esame di Stato con 58 sessantesimi, ma proprio guarda, e credo, penso sia stato anche perché in quel periodo cominciò anche un po' la passione politica, perché l'eri 68 più o meno, 68-69, e a Arezzo cominciavano ad arrivare i movimenti studenteschi, capito? I movimenti, oddio, a Arezzo arrivava l'eco dei movimenti studenteschi più che altro, ma insomma, lotta continua, potere operaio, i marxisti leninisti, c'era i maoisti, le figure. I maoisti, insomma, quello che sembra barzellette, ma c'erano. Insomma, e noi si, tra l'altro si cominciò anche a frequentare un po' la sezione, c'era pochini, ancora nella sezione di partito, c'era in 4, 5, c'era io, Angelo Savelli, i Rossi, Paolo, i Caleri, i Toppone, veniva anche lui giù da Fabiano. Ma insomma, si cominciò a fare quello e si cominciò anche a fare primi scioperi. Si scese in piazza con l'operaio del danificio di soci, a scuola noi saremmo in grado di fare sciopero anche a settimane intere, eh? Noi non sentiamo ragioni, eh? Però il fatto è che soprattutto primi tempi e ci si credeva per davvero, cioè non erano cose, capito? Noi, ma anche professori a volte mi sembra ci credessero, cioè che dicessero queste sono cose belle, importanti, un nuovo modo, un po' per carità di Dio, cioè le esagerazioni in Italia ci sono sempre state, no? Hai visto? Potere operaio, che vuoi tu potere? Anche Paolo Villaggio in televisione diceva, no? Quelli di potere e operaio, perché parecchi erano di famiglia anche borghesi, di gente che aveva studiato. Noi no, Noi c'era un gruppo, io e Stefano si era capi di quel gruppo lì, per Dio, un sana lira in due. Si andava in giro con la 500 di Stefano, che dalla parte di passeggero c'era di paura, lo sportello stava fermo con 10 lire messe a forzare, alle curve, no. Noi sarà coerenti almeno questo. Però insomma, guarda, l'era stato un bel momento. Per me però ci fu anche un piccolo problema, perché mi accorsi che una gamba la mi diventava il fine. E mi pareva strano a me, perché era bella successa alla mia sorella piccina. Infatti avevo anche un po' timore di andare a dire alla mia mamma, visto? Però io dissi, guarda mamma, abbi pazienza, a me sembra avere la gamba più fine. E la mia mamma, madonna. Quindi siamo da capo, un anno c'è, sì, 2 anni le scarpe, madonna. Sando dai dottore, dai benvenuti, disse, venne fuori l'era poliomielite non avvertita. Dico, ma che problemi darà la poliomielite non avvertita? Dice, no, ma niente, la gamba si affina, l'arto si accorcia e il piede si ritira. Dico, c'è modo? Dice no, non c'è soluzione. L'unico modo, guarda, tu puoi fare un rialzo alla scarpa con tacco. Questo è il massimo che tu puoi fare. Dice, ma tu l'hai fatto in militare? Dico no. Dice, allora tu hai un'unica fortuna. Dice, ti scartano a fare il militare, perché ai militari il rialzo sotto alla scarpa non gliene mettono. Un po' gliambeghe, ti venisse la scoliosi per colpa sua. No. E infatti ha ragione, mi scartarono a fare il militare. Ora, io devo dire, a me sta gamba tanta noia non me l'ha mai data. Semmai il mal di schiena è il problema, perché io tendo a appoggiarmi dalla parte della gamba buona, capito? Perché sono state le più fine per davvero, eh. Sicché tendo a appoggiare. Poi ho fatto sempre tanto sport, sicché bene o male me la so cavata. Dice, per il mal di schiena dovrei dormire senza cuscino. Io ho provato a dormire senza cuscino e mi sono svegliato senza il mal di schiena, ma mi schiantava la testa. Abbiate pazienza, allora posso dire anche il mal di schiena. Mi dettero le pasticche per lo stomaco e per la gamba, incrociandole nello stomaco. Mi dettero le supposte, e insomma le supposte, a me mi sono marbate, vorrei conoscere qualcuno di garba le supposte. Insomma, piccoli fastidi, per carità di Dio, cose risolvibilissime, però insomma alla fine un po' di scompensi sta gambina, un po' me la porta. Io devo dire, a parte questa storia qui, in quegli anni lì stavo parecchio bene. Cioè io a Stia non ho mai trovato nessun motivo di lamentarmi, si stava bene. Mi ricordo il bar parecchio, il bar Savelli, quello me lo ricordo bene, perché noi si stava sempre lì fissi dalla mattina alla sera, bello che l'era, senti. Poi alle 2 di notte tanto proprietari tirano giù i bandone, noi si restava dentro e si giocava a Monopoli, si parlava di politica, si parlava anche di donne, per carità di Dio, si beveva e ora è chiuso. A me mi fa un po' effetto sta cosa, devo dire la verità, perché era abituato, se ci passava davanti e trovava il bandone giù, e lo sapevo che dentro era tutto pieno. Invece ora no, ora c'è il bandone giù e basta, capito? E per chi come noi ci ha passato tutta l'infanzia, poi gli anni più, quelli più belli, quando l'adolescenza, la sfuma nella maturità, io, Marilena, Enzo, Sergio, Patrizio, per noi, insomma, è stato un... Perché poi fra l'altro a me viene da pensare che la nostra generazione alla fine l'ha fatto di molto casino, sì, per carità di Dio, ma... E le stava più simile alla generazione di prima che a quella di dopo. Cioè, se tu guardi anche gli svaghi, noi si andava in fiume, si andava a giocare a carte ai bar, si andava a ballare, ma la domenica pomeriggio, non è che si fosse, capito, a ballare si andava tanto a ballare. E io mi sono sempre divertito tanto. Perché poi in Casentino c'era diversi locali, C'era lo Splendor a Borgo alla Collina, dove ebbero la brillante idea di portare Renato Zero allo Splendor a Borgo alla Collina nel 71. Fece un po' scalpore, perché insomma questo uomo molto vestito strano, boh, insomma. Poi c'era il Caravellino dove poi ho conosciuto Maria Rosa, la mamma della persona che avete davanti in questo momento. E c'era anche i Piper, c'era anche Attile Piper, sì. E infatti ci portarono Patti Bravo, non per nulla, ce la portarono a un concerto, mi ricordo che fece anche un po' impressione a me Patti Bravo, perché a vederla in televisione, questo è stato un'alta bionda, sempre quadrata da sotto, non per nulla, qua è vivo un cazzettino in questa maniera, bionda sì, per carità di Dio, ma sicca finita, dico Dio, ma tutta a me Patti Bravo, però insomma brava lei, brava anche Nomadi, che venne alla strada, sì, era una bella... Poi, ora, raccontava così, e sembra che io fossi sempre a divertirmi. No, io studiavo d'inverno ed è stato andare a lavorare con il mio babbo, sicché tranne un breve periodo che andavo in vacanza, ma le vacanze me le pagavo da me, perché non è che si navigasse nel d'oro, E anche in vacanza quanto mi sono divertito, senti, io davvero a Rimini, a Riccione, poi ancora la Riviera, l'era bella, c'era il mare pulito, ancora a Riccione, senti, mi ricordo a Riccione si andò in 6 in una tenda militare da 20. La schiantata e ridere lì, donne come ti parevano di Mantova, di Bergamo, le straniere anche c'era, e tutte le sere l'era Baldoria, e lì davvero, senti, lì si beveva, lì si beveva, mi sembra, senti, in 6 in 12 giorni si beve 150 litri, sì, che si beve davvero. Solo l'ambrusco, l'ambrusco frizzante, quello che costava meno, per carità di Dio, non si usava per ogni cosa. Tant'è vero, mi ricordo una volta mi tagliai, mi feci in taglio una scatoletta di tonno, e feci dire a questi ragazzi, vai, l'ambrusco frizzante, frizzava, mi tagli, non sapevo da che parte rifarmi. Poi fortuna c'era un tedesco accanto, e insomma, lo faccio un pochino, lui alla meglio, pietà e misericordia. Però ci divertiva, anche a Rimini ci divertì, però a Rimini si disse il campeggio basta, no, si va in pensione per trovare la pensione a Rimini. Oh parini, poi dopo alla fine cosa la trovò? Enzo la trovò, che disse, qui secondo me ci hanno posto sicuro, guarda, si guardò l'insegna, pensione Sorci, e infatti poi ce l'avevano, ci hanno posto. sì, bene si stette bene, non ci spese nemmeno tanto. Erano bei tempi, che poi io poi ho fatto tante vacanze, anche dopo quando stavo con Maria Rosa, era motivo sempre di grandi litigate con Maria Rosa questa cosa, perché secondo lei non dovevo andare in vacanza, ma secondo me sì, non è che andessi in giro a cercare quell'altra, andavo per divertirmi, ho fatto il giro d'Europa con la 500, e questo è ragionamenti, ma io non sapevo nemmeno bene come comportarmi, perché fra l'altro prima di Maria Rosa io una storia vera non m'ha avuta, capito? E solo piccoli flirt, roba così passeggera. E invece poi con Maria Rosa cominciò questa storia. Senti, con Maria Rosa ci si conobbe nei 69 o nei 70. Boh. Insomma, a ballare al Caravellino, mi ricordo, si ballava Io e te da soli di Mina. Bello, fu una bella giornata. Infatti poi dopo Io e te da soli è diventata un po' la nostra canzone, visto? Cioè Maria Rosa dice che la nostra canzone è una di Santana, Samba Patì. Ma io non la conosco nemmeno, sicché io non penso possa essere quella, non penso sia quella che dico io. Ma insomma, non ci si mise insieme subito, perché se era giovane, hai visto? Mi chiamo Maria Rosa Galastri. Sono nata a Bibbiana Stazione il 15 d'ottobre del 1952, sono la mamma della persona che avete davanti in questo momento. Sono nato il 15 ottobre anch'io, sì. Come Angelo. Che mi ricordo, gliene dissi subito, perché io e Angelo ci siamo conosciuti il 4 ottobre, sì, che dopo poco era il mio compleanno. E gliene dissi, sono nato il 15 ottobre. E lui anch'io. E io no. No. E lui, dai, sono il 15 ottobre. No, io sono nato il 15 ottobre. E lui anch'io. Insomma, gli tocco tirare fuori la carta d'identità, perché io non ci credevo. Angelo, intendiamoci. Angelo, io l'ho sempre chiamato Angelo. No, Angelo. Perché via. Angelo non è il nome. Angelo non è nemmeno una parola. Abbi pazienza. Addirittura c'è qualcuno che lo pronuncia Angiolo. Scherzo, evitiamo questi problemi. Angelo. Poi io, fra l'altro, mi ricordo nel diario con le mie amiche si scriveva nomi dei fidanzati. Io mi vergognavo a scrivere Angelo. Io scrivo Angelo. E ci siamo conosciuti a ballare a Caravellino. A ballare nel 70. Si ballava io e te da soli di Mina. Si ballava. Lui non è che ballasse molto bene, ma insomma, io invece gliela cantavo tutta all'orecchio, capito? E lui mi disse: Madonna, ma tu canti bene. Tant'è vero, poi a Natale mi regalò anche il disco. E sì, sì. È diventata un po' la nostra canzone, quella lì. Quella è una di Santana. Samba Patti, bellissima. E insomma, si ballava. Ma non è, in realtà, in questi posti tipo al Caravellino, non è che ci fosse, hai visto, c'era ragazzi in gruppo e le ragazze in gruppo, no? E Angelo venne da noi, venne a chiedere di ballare a una mia amica, che gli disse di no. Allora la piace a me. E io gli disse di sì. Però ecco, non è che ci fu quel colpo di fulmine, quella conoscenza, chissà come, tant'è vero mi viene da pensare alle volte che se quella mia amica quel giorno gli avesse detto via, no, voglio ballare, ma andiamo, magari proprio non ci sarebbe proprio nessuna persona davanti a voi in questo momento. Però batte la pesca, si fa sempre per ragionare, perché chi le può sapere queste cose. Ma insomma, finì lì. Ma qualche giorno dopo che conobbi Angelo, mi ricordo, si fece sciopero a scuola a Poppi, perché erano anni un po' movimentati, Oddio, noi a Poppi c'era quattro gatti, c'era un po' all'occhi, un po' chiocani, non è che si sapeva proprio bene tutte le storie, però insomma scioperi si facevano anche noi. E quella mattina c'era, tant'è vero mi ricordo una volta, si fece questo sciopero per Panagoulis, questo greco, insomma. Si fece questo sciopero, no, con questi cartelli per Poppi, liberate Panagoulis, liberate Panagoulis. E poi dopo si tornò in classe e si scoprì che Panagoulis l'ha liberato la notte prima. si prese tutti i sette in condotta, mi ricordo, per questo. Ma insomma, non si smise, e anche quella mattina c'era questo sciopero. Si disse con l'Ambra, la mia amica, se andare a Arezzo a riprendere la mia sorella più piccina, l'Angela, la zia della persona che avete davanti in questo momento. Ma io nemmeno me ne ricordavo che anche Angelo andava a scuola a Arezzo. Non è che ci andassi con quello scopo lì. Fatto sta però che nel viaggio di ritorno in treno incrocio Angelo. Lo saluto, lui mi guarda e non mi riconosce. E io penso, ma guardate questo cafone, e torno al posto mio. Dopo un pochino però gli viene in mente che arriva lì e si comincia a parlare e ci si è detto appuntamento per la domenica dopo. Perché io uscivo solo la domenica, in famiglia mia uscì di sera, non si poteva, perché poi noi la mamma c'è morta da piccina, che ci ha cresciuto la nostra nonna, per carità di Dio, a ballare per l'ultimo dell'anno la sera, ma se no... Sì, mi ricordo ci era dati appuntamento al piazzone su Bibbiena, che era un freddo, mi ricordo, e io fra l'altro stavo anche male perché da ragazza c'avevo la bronchite asmatica io, e mi dava parecchia noia, soprattutto d'inverno. Sicché stavo fermo in questa panchina e Angelo per l'appunto tardò anche quel giorno. E io fermo in questa panchina il giorno dopo la febbre a 40. Allora Angelo disse: oh via, vengo a trovarti. Allora io mi vergognavo, perché veramente noi non si stava bene in famiglia, si era una famiglia un po' disgraziata, un po', e si stava in una casa che davvero non era fatta per le persone, era una topaia tutta spifferosa, con l'inverno di segni di ghiaccio nei vetri, non... con tutte queste, era tutta cascava a pezzi, tipo in camera del mio babbo, per dire, c'era una mattonella che se tu la pestavi si apriva l'armadio. Sì, che capito. Però ero contenta anche che Angelo venisse a trovarmi, però mi vergognavo, insomma, e sono sempre stata un po' strana io. E il fidanzamento è andato avanti 6 o 7 anni e c'è stato tanti alti e bassi, e devo dire che io in effetti, perché poi per esempio sono sempre stato anche un po' assillante, quindi quando Angelo andava in vacanza con i suoi amici io gliene facevo pesare, però a me ci mandavano, capito? Faceva bene poi, ero, perché davvero non, cioè io ero molto chiusa in questa dimensione familiare con la mia nonna, sempre un po' guardati a vista. Infatti se decidete di sposarsi con Angelo per avere anche un minimo di intimità in più, e allora ci si sposò l'11 di settembre, questa data, e poi dopo è un po' così, ma insomma, il 77 ci si sposò. E io ve lo vorrei raccontare del matrimonio davvero, ma non mi ricordo proprio nulla. Mi ricordo un gran caldo, mi ricordo questo vestito, i parenti, questo pranzo. Ma il Caravellino si fece il pranzo, che non era un ristorante, però il mio babbo era cuoco, era bravo, sicché ci pensò lui, capito? Ci fece il volevon. E chi l'aveva mangiati mai, volevon? Bello, una giornata bellissima, indimenticabile, mi verrebbe dire, ma non mi ricordo nulla davvero. Mi ricordo che poi alla fine io voglio andare a portare il mazzolino su nella tomba della mia mamma, che ci tenevo che in qualche maniera ci fosse un po' anche lei, no? Eh sì, sì. E poi si partì per questo viaggio di nozze. A me del viaggio di nozze non importava nulla di niente. Se vi dico la verità, io avevo voglia della vita a due, della vita di coppia, perché era una dimensione che io praticamente non la conoscevo per nulla. Avevo voglia della mia casina, capito? Delle mie cose, di cucinare. Ora Dio, per carità di Dio, a quei tempi io il giorno non tornavo, che lavoravo fuori, lavoravo a Subiano. Sicché Angelo parecchio si faceva mangiare di morti tortellini secchi, ecco, ma c'è queste cose qui. Una volta provò a fare l'ova sode. Poi no. Davvero, perché e mise questa pentola a bollire con quest'acqua a bollire, poi dopo pigliava l'ova dal frigorifero direttamente e ce le buttava dentro. Questo ova schiantava giù. E non capiva. Allora, non è che si fermava, 12 ce ne mette. Ha fatto questa schiumarola di questo, vabbè. Insomma, infatti mangiava questi tortellini secchi parecchio. Però, ecco, io devo dire che a quei tempi invece cucinavo anche bene, perché a tempi ancora mangiavo anche un po' di carne. Ora ho smesso completamente, proprio una cosa che mi disgusta, ho smesso la carne, ho smesso il formaggio, ho smesso il pesce, ho smesso i legumi, ho smesso queste cose che hanno un sapore, proprio me l'hanno noia. Comunque, insomma, a parte la parentesi, via, se partì per questo viaggio di nozze. Noi si voleva andare giù in Sicilia, ci si fermò la prima notte al lago Trasimeno, bellissimo, mi ricordo la prima notte, insomma. E poi si proseguì giù, si arrivò a Amalfi, in questo famoso Lloyd, questo hotel Lloyd, che non era proprio il nostro ambiente, noi eravamo un po' più viaggianti, ecco, io avevo questo vestitino tipo balla, Angelo jeans, invece questo Lloyd ci andava in ritiro una squadra famosa, l'Amalfi, insomma una squadra di Serie A di quei tempi. E sì che Angelo, io mi ricordo si arrivò in camera e c'era tutta questa cantelletta, c'era tutta questa schiera di bottoni e Angelo mi ricordo disse oh via, e voleva accendere la bajur e chiamò il servizio in camera, illustra la scarpe, perché continuava a pigiare, capito? Sì che arrivava questa gente, no, andate via, andate, io voglio accendere la bajur e basta. E insomma, poi sono andato giù a mangiare. Arrivo il cameriere con questo vino, gli versa questo gocciolino di vino a Angelo e poi lo guarda. E Angelo, grazie. E lui, poi glielo disse, guardi, e le l'assaggio. Grazie. Sì. Noi si fa da noi. Se non ci fu verso, non capì mica. Vabbè, non era il nostro ambiente, insomma. Dopo ci è presa anche sul ridere, insomma, dopo alla fine si è strette bene. si scese giù, poi dopo si continuò, si fece Diamante, Taormina, Pugno Chiuso, che era un bel posto, ci si voleva andare a Pugno Chiuso perché c'era questo bel albergo dove si faceva congressi Berlinguer. Sicché Angelo ci teneva a vederlo, insomma, lui aveva visto Berlinguer, insomma. E poi dopo su, mi ricordo ci si fermò anche sotto Roma a fare il bagno, poi nel viaggio di ritorno si arrivò in Casentino, un freddo si morì. Io non lo so come mai in Casentino c'è qui il clima, lì si sta malissimo. C'è sempre 5 o 6 gradi in meno da quelle altre parti. Ma insomma, e si cominciò la nostra vita di coppia. Ora, il problema è che io... ho detto, non sono sempre stata un po' strana, sicché anche in quella dimensione io tendevo a ritornare indietro. Volevo, che ne so, la sera volevo andare a vedere come stava la mia nonna, volevo andare dalla mia sorella, forse sarà perché si è avuto un'infanzia talmente difficile, io volevo ritornare a vedere come stavano mia, capito? Per me non mi ha pensato, pensavo sempre a come stavano quell'altri, capito? Angelo gli andava anche bene, che alla fine Angelo è sempre stato accondiscendente. Poi a tempi già faceva anche il sindaco a Stia, quindi lui non c'era mai, la sera andava alle riunioni, in sezione. Io invece a tempi lavoravo, lavoravo in una impresa, pigliavo, non ricordo mica quanto sei. Ma insomma, tanto posso andare a rivedere, perché le buste paga ce l'ho tutte io. Io non butto via nulla, nulla. Io tengo... i contenitori della ricottina della coppa. Io tengo i barattoli delle creme finite. Io tengo i cappucci dei deodoranti. Non lo so mio come mai. Mica non faccio nulla. È una mania. Non lo so. Una volta che finito il deodorante mi accorgo che... E tengo il cappuccio e butto io. E lo metto lì. Lo metto nel mobilino del bagno. Questi cappucci. Io un giorno li guardai per bene. Questi cappucci sono davvero troppi. No, e sicché li mise tutti in questo sacchetto, ma poi non ce la feci, mi piazza il cuore, mise il sacchetto dentro la cassapanca, ce lo pigiai e è rimasto lì. E perché tengo i vestiti, ne parliamo, mai buttato via un vestito in vita mia, ma io tengo anche le etichette se sbrilluccicano un po', se sono di quelle, hai visto come fanno anche ora, no, le tengo, non lo so mica perché, io a volte mi fa anche un po' paura sta cosa, ma dice una cosa, la fanno tanti della mia generazione, forse perché si è patito un po', non lo so, boh, però io non me lo domando tanto perché, ecco, non do noia a nessuno, sicché la fo e basta. Ma insomma, comunque, ecco, lui faceva il sindaco, poi dopo entrò anche a scuola, più tardi, io intanto lavoravo a questa Subbianese, e sicché ci si vedeva anche giusto, insomma, alla fine, e io devo dire facile insomma stata, se si leticava io ero capace di tenere il broncio anche per settimane, non ero... Ma perché se tu sei diverso da una persona, se io ti dico una cosa ma te non tu la senti dentro, tu mi dici di sì, ma la volta dopo tu fai uguale. Per esempio, io una sera gli dissi, ero già incinta, gli dissi, per piacere, stasera non fare tardi, vienimi a ripigliare. Io andavo a trovare la mia nonna, dico, non fare tardi in sezione, vienimi a ripigliare perché sono incinta, è freddo, devo tornare da sola a piedi. E lui mi disse, sì. Per l'appunto, poco la sera in televisione si guardò anche la mummia, sicché poi dopo gli avevo anche paura a tornare a casa. E lui non venne, non c'era. Non tornò presto perché appunto lo so che non l'ha fatto con cattiveria, però su quelle cose che ha visto a volte sembra proprio che ci si capisca, mai che ci si sia offesi, mai che si sia arrivati a scemo, cretino, imbecille, mai, qualche vaffanculo ogni tanto, ma il resto, che Angelo lo sa che mi dà noia, anche la bestemmia davanti al muso, mai. Ma una volta spaccò il piano della cucina con una martellata. Perché io ho l'insistenza, capito? Ti posso portare fuori da gangheri se insisto. Dopo magari e abbaio e poi ti do retta. Invece lui, capito, le cose gli entrano da una parte e escono da quell'altra. E poi fa come gli pare. È un po' difficile stato, ma un altro sa quante volte mi avrebbe lasciato. Invece lui mi ha sempre sopportato. Poi, cosa c'entra? Ci siamo anche divertiti, più divertimenti del gruppo, semmai, che de coppia vera e propria. Si andava in mare con i nostri amici, e con coppia non è che si facesse... No, il teatro ci garbava, quello sì. Tutte le volte c'era il teatro a Stia, a Bibbiena, a Prato Vecchio, allora si andava, sì, quello sì. Che poi, a raccontare le cose in questa maniera, alle volte sembra che ti sia rimasto impresso di più la roba che ti ha fatto patire, almeno a me, no? Io sono fatto in questa maniera qui. Il divertimento, alla fine, no? Che è una bella fregatura, no? Se ci pensi. Però, insomma, è così. Io rimasi incinta l'agosto dell'anno dopo, sì. Sì, me ne accorsi, senti, me ne accorsi a Venezia sera. Sera a Venezia, in su e in giù, per quei cose, per quei campanili di Venezia. Io mi ricordo che avevo già un po' d'affanno, un po' di... E infatti poi dopo, se tornò a casa, se fece gli esami, ero incinta. Ero preoccupata un po', perché quell'estate avevo fatto anche una cura di cortisone, più un calcolo che mi viene qua. E sicché dico, madonna, cosa gli avrò fatto a questa creatura, se non fosse normale, e se non avesse tutte e 10 diti, povero bambino, visto si dice, no, questa maniera. E poi Angelo si è mise a fare conti, se no, ma guarda, l'ha preso prima, il cortisone, sta tranquilla, non gli ha fatto nulla, ma io tranquilla, tranquilla non ero. Ma insomma, si cominciò a pensare a nomi, se pensava, perché allora non c'era l'ecografia, no, sicché non si sapeva se era maschio o femmina. Se pensava se era una femmina, a me piaceva Elena, però ce l'aveva fregato Luciana, la sorella di Angelo, Elena era lei, o se no mi piaceva Emma, Gemma mi piaceva parecchio, Laura. Invece se era un maschio, io pensavo qualche nome Nele, Michele, Raffaele, Gabriele, Emanuele, e invece Angelo gli piaceva parecchio Riccardo. Dico, alla fine, guarda, Riccardo garba anche a me, sì, e insomma Riccardo ci mise un po' più d'accordo tutti e due, ecco. E ho partorito a maggio dell'anno dopo, e il bambino nacque un po' con un po' di problemi, nacque parecchio in ritardo, con un po' di problemi, tutto disidratato, secco, secco, secco finito, magro da morì, però dopo riprese subito, gli misero subito l'aghi in capo e lui riprese immediatamente. E bello, una gioia vederlo, più che altro appunto perché io avevo paura, no? Invece dopo a vederlo era normale, cioè c'aveva tutte e 10 i riti. E allora nulla, si è chiamato Riccardo. Mi chiamo Riccardo Coretti, sono nato il 19 maggio 1979 a Bibbiena all'1:05 di pomeriggio di un sabato pomeriggio, e sono la persona che avete davanti in questo momento.